l'allevamento, sono le due principali fonti del randagismo nelle zone rurali della Maremma toscana. C'è un piano randagismo che è stato appena varato dalla provincia insieme a tutte le categorie interessate, piano provinciale randagismo che siamo in attesa che i comuni adottino e che quindi ritorna sul discorso di prevenire soprattutto quelli che sono cani vaganti. In questo modo facciamo qualcosa di buono, fermo restando che la LAV non potrà mai sostenere gli allevatori, perché sostenere gli allevatori significa sostenere morte di migliaia di agnelli ogni anno soltanto nella provincia di Grosseto. E adesso una carrellata di brevi. Venerdì 10 gennaio 2014, cioè domani, dalle ore 17.30 presso il caffè Pascoschi in Piazza della Repubblica a Firenze, ci sarà un incontro con lo chef vegano Gabriele Palloni, che presenterà il suo libro di ricette vegane Speriamo che sia vegan, edizioni Cibarius. Questo evento è stato organizzato dalla sezione ENPA Firenze, Ente Nazionale Protezione Animali, per la diffusione di una cultura alimentare più etica nel rispetto degli animali e del pianeta. Per l'occasione ENPA offrirà un aperitivo vegano agli intervenuti. Mercoledì 15 gennaio a Settignano, Anna Maria Manzoni, psicologa e psicoterapeuta, sarà ospite della redazione di Restiamo Animali e della Casa del Popolo di Settignano per il consueto appuntamento culturale mensile. Si parlerà di psicologia e di antispecismo, perché la violenza sugli animali danneggia la società umana. Le carte in tavola non si cambiano, il governo rispetti l'articolo 13. Per chiedere al governo e al ministro Lorenzin di rispettare l'articolo 13, che, pur non cancellandola, consente di limitare alcuni aspetti della sperimentazione animale nel nostro paese, la LAV ha organizzato un presidio permanente fino al giorno 14 gennaio a Roma, in piazza Castellani, lungo Tevere Ripa, negli orari di apertura degli uffici ministeriali, quindi dalle 9 alle 17. Tutto questo perché il governo, nel decreto attuativo, ha intenzione di modificare l'articolo 13, mentre la LAV gli sta intimando di recepire tutte le modifiche migliorative della direttiva europea sulla vivisezione già approvate dal Parlamento italiano. E infine presidio all'American Circus domenica 12 gennaio dalle ore 15 davanti al Forum Nelson Mandela di Firenze. Ritroverete tutte queste notizie anche nel nostro blog, che adesso è restiamoanimali.it. L'appuntamento con la puntata lunga di mezz'ora è per domenica prossima, il 12 gennaio 2014, poco dopo le ore 12. I wonder should I call?